falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Quella di oggi è una storia di mafia, ma non della mafia di oggi, della mafia della Sicilia o di Roma o di Milano, della Calabria, insomma non una storia di mafia attuale. Si parte da lontano, quella mafia che ha ispirato scrittori, cineasti, qualsiasi cosa. Un bravo ragazzo ha sempre ragione, anche quando ha torto ha ragione. In ordine di importanza c'è quello connesso, il bravo ragazzo, il capodecina e il boss. Ma da adesso io ti presento agli altri e dirò: questo è un mio amico, che vuol dire che sei un connesso. E se invece io dico: questo è un nostro amico, vorrebbe dire che sei un affiliato, hai capito? Sì, un mio amico, un nostro amico. Bene. Io come ti devo chiamare, un nostro amico? Io sono stato convocato. In cosa nostra, se qualcuno ti convoca, sei vivo quando entri e sei morto quando esci. Ed è il tuo miglior amico a liquidarti. Questo era Giancarlo Giannini che stava doppiando Al Pacino nel film Donnie Brasco. Per entrare un po' nel mood di questa puntata, amici degli amici, tradimento, cosa nostra, questi sono gli ingredienti della vita dell'ultimo boss della storia mafiosa recente, capace di attirare l'attenzione dei media e di affascinare milioni di persone. John Gotti, il padrino elegante, il boss di Teflon, come lo definirono i giornali per le sue capacità di farsi scivolare addosso accuse gravissime nei processi. L'uomo che conquistò non solo il potere sulle cinque potenti famiglie mafiose di New York, ma anche l'attenzione della stampa mondiale. Il primo boss a rompere un'importante regola della mafia, quella di non farsi notare, di volare basso e di fare affari di nascosto. E no, John Gotti è una star, è un personaggio a metà strada tra Vito Corleone e Tony Soprano. E lui fece esattamente l'opposto. La figura di Gotti ha ispirato negli anni molti registi, molti scrittori. Giusto per fare un esempio, il personaggio di Joey Zaza nel Padrino parte terza è ispirato proprio a lui. Io dico a tutti voi che qui oggi sono stato trattato senza rispetto. Io vi ho fatto guadagnare, io vi ho fatto ricchi e vi ho chiesto ben poco. Bene, non me lo volete dare e io me lo piglio. E dove può nascere un boss destinato a diventare il numero uno? Beh, nel Bronx, naturalmente, che è il quartiere più difficile di New York. E lì nasce nell'ottobre del 40, passa la sua infanzia da genitori di origine italiana, John Gotti. E genitori italiani, non siciliani, bensì dell'Interland napoletano, San Giuseppe Vesuviano. Il padre si chiama anche lui John, una specie di tradizione di famiglia. La madre Filomena, ma col PH, e detta Fanny. È ancora giovanissimo quando con i fratelli Peter e Richard entra in una gang locale. Finalmente avevamo il nostro circolo privato. Che forza questa canzone! Lo avevamo chiamato il Dosis Wild, un dollaro a bibita. Col jukebox e il distributore di sigarette ci pagavamo l'affitto. Passavamo il tempo lì a far niente. Facevamo sega a scuola e stavamo lì notte e giorno. Nessuno voleva andare a casa perché sarebbe stato gravissimo andarsene per primi e scoprire il giorno dopo che ti eri perso qualcosa. Beh, un'infanzia in cui già ci sono gli schemi e i valori, se così possiamo chiamarli, delle cosche mafiose: botte, riti di iniziazione, violenza, che è una pratica per la quale il piccolo John sembra già particolarmente portato. Nel Bronx lui rimane fino a 12 anni, quando la famiglia si trasferisce a Sheep's Head Bay a Brooklyn, che è una specie di terra di mezzo, è un posto dal quale si comincia a vedere Manhattan, però nel quale la distanza da quella vita, da quel mondo fatto di affari è siderale. A dire la verità, il denaro non è il motore principale che muove il giovane Gotti, e i dollari servono, ma quello che lo attira è la vita da strada, è il suo modo di vivere, dove c'è un codice, dove si corrono rischi, dove se hai le palle e sei pronto a tutto, le occasioni sono tante. Il percorso che John sceglie fin da bambino è quello malavitoso, e da quell'angolo di Brooklyn comincerà la sua vera e propria carriera criminale. Perché in quegli anni la mafia è presente a New York, è fiorente, indisturbata, e sono anni in cui l'autorità sottovaluta un po' il problema. Quindi la mafia diventa uno dei più famosi prodotti di esportazione italiana. Cinque sono le famiglie: i Bonanno, i Colombo, i Genovese, i Lucchese e i più potenti di tutti, i Gambino. Ogni famiglia ha una struttura verticistica, secondo uno schema che risale ancora ai tempi di Lucky Luciano. Dai gradini più bassi della famiglia Gambino, Gotti muove e i primi passi. Il Falco e il Gabbiano. Sembra la storia di uno dei tanti film su Cosa Nostra, invece vi stiamo raccontando una storia vera, quella dell'ultimo padrino mediatico, John Gotti, reso famoso dalla sua voglia di apparire, dalla sua strafottenza. Diventa capo della potente famiglia mafiosa di New York, il Gambino, attraverso l'omicidio del suo stesso boss. La famiglia Gambino è il clan più potente in quegli anni. Lo scrittore John Davis ha scritto il libro Mafia Dynasty, ascesa e caduta proprio della famiglia Gambino. Che impresa strana ed esotica era stata per 60 anni la famiglia Gambino di New York. Questo tumore enorme e vorace, profondamente radicato nel tessuto sociale dell'Italia meridionale e rurale del secolo scorso, era cresciuto al punto da poter imporre una tassa invisibile alla popolazione della città più potente e influente del mondo. La gavetta di John Gotti, prima nel Bronx, poi a Brooklyn, sotto ai Gambino, però ancora siamo fermi ai piccoli affari, qualche furto. È il tipico personaggio minore, peraltro robusto, però ha un'andatura zoppicante provocata da un incidente, perché nel 54, mentre cerca di rubare un miscelatore di cemento da un cantiere, questo si ribalta e gli schiaccia un piede. Nel 62 John Gotti sposa quella che resterà sua moglie fino alla fine, secondo i crismi della indissolubilità del matrimonio, che sono fondamentali per gli affiliati alla mafia. È un'unione che gli darà 5 figli. Il primo reato interessante da quel punto di vista è un furto di merce all'aeroporto Kennedy, quando ancora si chiamava Idlewild. Gotti fa sparire con alcuni complici un camion nella zona di carico dell'aeroporto, insieme a $30,000 di merce varia. E l'FBI comincia a sorvegliarlo, cosa che negli anni sarà una costante della sua vita. Alla fine gli agenti lo beccano la prima volta con le mani nel sacco, mentre ha con sé parte di quella merce. Siamo nel 68, lui viene identificato come autore del furto, ammanettato, e in 2 mesi colleziona 3 arresti, l'ultimo per avere alleggerito un altro camion di sigarette per $500,000 di valore, e arriva la prima condanna pesante, 4 anni da passare nel penitenziario di Lewisburg. Ne uscirà 3 anni dopo, per niente cambiato, anzi la strada gli piace commettere reati, gli piace rischiare la galera. Ecco il ricordo da parte del figlio John Gotti Jr. Un amico di tuo padre mi disse che non c'era nulla che John amasse più dell'essere gangster. Nulla. Che cosa gli piaceva in particolare della vita da gangster? Tutto. Non c'era niente che non gli piacesse. Mio padre viveva quella vita 24 ore su 24. Infatti sua moglie e i suoi figli erano in secondo piano rispetto alla vita di strada. L'amava. Amava i suoi codici, amava l'azione, amava gli inseguimenti. Mio padre doveva stare là fuori, in città. E per lui quella città non poteva che essere New York, perché era una città che non dormiva mai e c'era sempre azione. Questo per lui era più importante del denaro? Lui odiava il denaro. Se un tizio della strada metteva da parte del denaro, lui in genere diceva: che cosa ha in mente quello? Ma che ci vuole fare? Sai, alla fine della giornata finiamo tutti in galera. Cosa crede di fare con quei soldi? Era quello il suo modo di vedere la vita? Lui pensava che chi vive davvero quella vita di strada, quelli come John e non i ciarlatani o le comparse, alla fine della giornata o muoiono o finiscono in galera. Queste sono le regole. Per lui le cose stavano così. rules. That's the way it was. Beh, quindi un punto di vista particolare, cioè non uno che diventa un delinquente per i soldi eccetera, ma proprio per il gusto di fare una vita da delinquente. E quindi per uno come lui il carcere è solo uno dei passaggi obbligati, va accettato per poi uscire e ricominciare la scalata nell'organizzazione. Sì, perché John è ambizioso, vuole emergere dalla massa di picciotti che aspirano a posizioni migliori, bisogna uccidere, è così che ci si fa notare. Lui è già la persona di fiducia di Charlie Wagons Fatico, che è il pezzo grosso, un pezzo grosso del clan Gambino, e diventa il suo killer di fiducia. E il primo omicidio lo compie proprio appena uscito di galera, si veste da poliziotto e va in un locale pubblico, incontra James McBratney, colpevole di avere rapito e ucciso il figlio di Carlo Gambino, quindi del capo dei capi, quindi non uno leggero. Bene, lo guarda in faccia e lo ammazza. Gotti emerge in pochi anni, diventa il braccio destro di Aniello Neil della Croce, uno dei personaggi più vicini a Gambino, il Cove Umbar, che diventerà un punto cruciale della successiva battaglia dell'FBI contro Gotti. Si chiama Revenue Social Club a Little Italy. Da lì John comincia la scalata vera e propria, insomma un po' il derby della mafia newyorkese di quegli anni. Ebbene, lui vuole diventare padrino. Vediamo se ce la fa. I Falco e il Gabbiano. Ripeto, non vi stiamo raccontando la trama di un film, vi stiamo raccontando la storia vera, la storia di John Gotti, l'ultimo boss a aver avuto per sua scelta l'attenzione dei giornali e delle TV di tutto il mondo, il boss di Teflon, come lo chiamavano, perché sapeva sfuggire a processi e accuse, tutto gli scivolava via, almeno fino a che la caccia ingaggiata dall'FBI non lo ha definitivamente spedito in galera. Sono gli anni 80, la banda di Gotti opera in diversi settori criminali: usura, prostituzione, gioco d'azzardo, furti, rapine. Non solo, gli uomini di John, con il suo benestare, violano una delle regole vigenti in quegli anni tra le famiglie mafiose di New York: non bisognava sporcarsi con la droga. Ebbene, ormai bisogna occuparsi di tutti i grandi affari e la droga lo è, loro spacciano, provocando il risentimento dei capi della cupola, primo tra tutti quello che reggeva la famiglia Gambino, la stessa di Gotti, Paul Castellano. Insomma, è una partita di potere, è anche una partita ideologica tra la vecchia mafia e quella nuova che non ha più nessun tipo di remora. L'FBI inizia a stare alle calcagna della stella nascente del clan, i federali li sospettano anche per la morte di una persona che non ha niente a che fare con la mafia, un vicino di casa del boss, John Favara, che nell'80 ha la sfortuna di investire e uccidere il figlio minore di Gotti, e era meglio stare attenti a guidare. Il 12enne Frank muore investito da John. Lui non ha colpa, però non finisce mica così. Viene aggredito a colpi di mazza da baseball dalla moglie di John, Victoria. Poi viene rapito, ucciso dalla banda di Gotti. Lui verrà assolto per il delitto, una delle tante assoluzioni ottenute con metodi particolari. Salvatore Polisi è un ex appartenente della famiglia Gambino e ci spiega qualcosina in più. John trovava sempre il modo di intimidire i testimoni. Qualcuno spariva e lui poi veniva scagionato per ragionevole dubbio. Sai, questo tipo di cose. I metodi di Gotti sono diversi, ma tutti di quel genere: intimidazioni, corruzione, tutti i metodi per evitargli la galera. Intanto torniamo alla sua scalata al potere, lo scontro sullo spaccio di droga tra il boss dei Gambino, Paul Castellano, e lo scalpitante John Gotti. Insomma, lo scontro arriva a una soluzione dopo diversi momenti, conflitti a fuoco tra membri delle due fazioni. La soluzione è quella in cui Gotti è bravo, ovviamente l'omicidio. Gotti vuole regolare la cosa direttamente, ma non da solo. Castellano è un abitudinario perché si sente sicuro, nessuno oserebbe toccare il padrino. Ma Gotti, insieme al suo braccio destro Sam the Bull Gravano, ha idee diverse. Succede tutto la sera del 16 dicembre 1985. Castellano sta andando a cena nel suo ristorante preferito, lo Sparks Steakhouse, con il suo vice. Sentiamo il racconto di un investigatore dell'epoca, Bruce Moe. La rottura avvenne quando si seppe che il 16 dicembre Castellano avrebbe cenato allo Sparks Steakhouse di Manhattan. Gotti si trovava nella stessa macchina di Gravano che stava guidando. Fuori c'erano 4 cecchini con macchine per la fuga e una quindicina di picciotti. Bilotti e Castellano uscirono dal ristorante, fecero per entrare in macchina. Gravano aveva una trasmittente. «Stanno arrivando», disse. Poi 4 cecchini andarono incontro alla macchina di Castellano e spararono, assassinando Castellano e Bilotti. Il boss mafioso, Paul Castellano e la sua guardia del corpo sono stati uccisi a colpi di pistola nella loro limousine mentre sostavano di fronte a un famoso ristorante di Manhattan. Seguono giorni di materassi. I materassi, come abbiamo imparato dai personaggi del Padrino, stanno a significare guerra tra i clan, perché Gotti ha ucciso il suo stesso boss e questo non è accettabile. Allora le altre famiglie, con i Genovese di Vincent Gigante per esempio, reagiscono e per giorni nelle strade di New York si spara. Poi, come sempre, prevale il senso degli affari, perché quando parlano le pistole è difficile gestire il business. I capitani della famiglia Gambino si riuniscono e eleggono il nuovo boss, John Gotti. Il regno di Gotti tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 non è all'insegna delle regole secolari di Cosa Nostra, che sono il silenzio, l'omertà, il passare inosservati. Vincent Gigante, capo della famiglia genovese e grande antagonista di Gotti, per esempio, regna sul clan fingendo di essere pazzo, esce in pigiama come un vecchio malato e tenuto a braccetto dal suo guardiaspalle, vieta ai suoi uomini di nominare anche solo il suo nome, pena la morte. È un trucco per uscire dai radar dell'FBI. Gotti fa il contrario, si fa vedere in giro, presiede alle udienze dei suoi tanti processi, sempre con un atteggiamento strafottente, non finge, anzi, vuole rivendicare il ruolo di gangster, di capo mafioso. Sentiamo Fat Cell, che è un ex mafioso della famiglia Gambino. John si faceva vedere dai giornalisti senza problemi, sorridendo alle telecamere con il suo abito da $3,000. E noi picciotti lo sapevamo, eravamo abituati, stavamo bassi, in modo che John potesse sorridere, farsi vedere e dire ai reporter: «Ehi ragazzi, come andiamo?» Uno dei grandi persecutori di John Gotti è un magistrato che si chiama Rudolph Giuliani, quello che poi diventerà sindaco di New York. Ecco il suo parere su Gotti e sul suo atteggiamento. Ho sempre pensato che Dapper Dan fosse essenzialmente un idiota. Stiamo parlando di uno che si faceva vedere spesso sulla scena di omicidi, e farti vedere in quelle situazioni dovrebbe essere l'ultima cosa al mondo che vorresti fare. Anche solo farsi notare in quei casi dovrebbe essere l'ultima cosa al mondo da fare. E lui è strafottente anche ai processi, anche davanti alle telecamere, mentre i suoi uomini minacciano i giurati, li corrompono. E alla fine gli agguerriti avvocati di Gotti hanno spesso la meglio. Uno di questi si chiama Bruce Cutler. Riescono sempre a tirarlo fuori dai guai. Adesso toccherà a voi guardare attraverso il veleno e venirne fuori con una decisione giusta. È qualcosa che potete accettare di fare. Lo giudichiamo non colpevole. Ma l'FBI non molla. Lui è diventato un vero e proprio idolo a Little Italy e viene sottoposto a una strettissima sorveglianza elettronica. Le cimici però non riescono a registrare la sua voce, soprattutto al Rave Night, il locale dove la banda si riunisce tutti i giorni, finché gli agenti non scoprono che le riunioni del clan hanno luogo non al primo piano ma al secondo, perché c'è una stanza dove il padrino parla con i suoi scagnozzi e lo fa liberamente, pensando di essere finalmente al sicuro dai microfoni. Questa sarà Cosa Nostra fino alla mia morte, che sia tra un'ora o questa notte o tra 100 anni, o che sia in carcere, ci sarà sempre Cosa Nostra. Tu direi a quel pezzente che io, John Gotti, gli taglierò quella cazzo di testa. E lui non dice solo questo, perché parla esplicitamente di molti omicidi e di tutte le attività criminali che sono sotto il suo controllo. Così l'11 dicembre del 90 gli agenti federali fanno irruzione nel Rave Night Social Club, lo arrestano insieme ai suoi uomini, tra cui Sammy Gravano, il suo vice. Viene incriminato per una lista lunghissima, 13 omicidi, tra cui quello del boss Castellano, e poi usura, racket, evasione fiscale come Al Capone e altro ancora. mentre all'esterno del tribunale una folla di italoamericani protesta e manifesta a favore del boss. E intanto i procuratori federali snocciolano prove schiaccianti. Ricordiamo, siamo già nel 1990, non solo intercettazioni, perché piano piano i suoi uomini lo tradiscono, poi si pentono, entrano nel programma di protezione, insomma si sta sfaldando un pochino l'architrave su cui si reggeva il suo potere. Il tradimento più doloroso per Gotti è quello del suo braccio destro, Sam the Bull Gravano. Non è più il Teflon Don sul quale le accuse scivolano e rimbalzano, per lui si aprono le porte del carcere a vita. Siamo nell'aprile del 92. The crime boss John Gotti. Il boss del crimine John Gotti è stato condannato all'ergastolo senza la condizionale. Gotti era considerato la più potente figura criminale in America e di certo la più appariscente. Aveva la reputazione di essere un intoccabile. E lui questa volta dal carcere non uscirà più. E 10 anni dopo la condanna, John Gotti muore dietro alle sbarre per un cancro alla gola. Il suo corpo viene trasportato a New York con un jet privato per il funerale a un completo blu da migliaia di dollari. Insomma, abbiamo visto anche recentemente che il funerale per un boss è una cosa seria, bisogna fare bella figura. 8 persone portano la sua bara a spalle mentre un corteo di limousine attraversa le strade del quartiere, dalla sua a casa fino all'ultima tappa della carriera criminale, St. John's Cemetery di New York. Un personaggio naturalmente più che discutibile, e i suoi colpi d'ala sono sempre stati all'interno del crimine, però credo fosse una storia che andava raccontata. Intanto perché parla di uno spaccato preciso della storia d'Italia all'estero nel secolo scorso, e poi perché insomma ogni tanto queste storie è bene raccontarle, anche perché siano così un po' di monito per tutti. Se volete risentire questa storia, vi ricordo il nostro podcast, e quindi potete ascoltare tutto quello che volete sul podcast per quanto riguarda Il Falco e il Gabbiano, oppure visitate la nostra pagina, i miei social, insomma. Ma se volete, mi trovate e mi risentite. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.